mia vita, che mistero. Sono un peccatore dell'anno 80.000, un manzoniero. Ma dove sono e cosa faccio? Come vivo? Vivo nell'anima del mondo, verso nel vivere profondo. Misere, misero me, però prendo la vita. Io sono il santo che è tradito quando eri solo e vivo altrove e osserva il mondo dal cielo. E vedo il mare onde e le foreste e abbastanza per nascondermi, nascondermi, se sono la luce o la speranza, sole magnifico che splendi dentro me. Dammi la gioia di che ancora non c'è. Ancora non c'è.